viaggio con Easy Riders. Constatando che a qualunque ora Easy Rider vada in onda, il supporto, l'opening net in qualche modo è sempre Marco Garavelli, insomma, sia nella fascia diurna che in quella serale, anche se con due linguaggi radicalmente diversi, insomma, quello dell'Hard and Heavy che caratterizza l'ora dalle 20 alle 21 e poi riparte Easy Rider e quindi anche noi insieme a queste vibrazioni riprendiamo a sognare, riprendiamo a viaggiare, a camminare, a cavalcare, tanto per tradurre un po' il verbo to ride. Benvenuti all'ascolto dalla voce di Mox, anche questa sera pronto con un po' di cose nuove, alcune anche già ascoltate nel corso di questi anni di radio, di Rock FM, che sono stati sicuramente gloriosi per tante ragioni, ma voi lo sapete meglio di me. Iniziano ad arrivare i messaggi, ma io voglio partire con il nostro viaggio oggi dall'Europa quasi centrale, insomma, andiamo in Svizzera, andiamo nella Svizzera, credo francese, con questi Cobalt 60, un disco che recentemente vi ho proposto più volte e continuo a trovare tracce che hanno un loro perché, insomma, mi sembrano delle ottime aperture, delle ottime tracce di apertura. E lo è anche questa Guerriero dell'Arcobaleno, Rainbow Warrior. Allora, Cobalt 60, siamo nel 1998 e questo è il loro suono, che è un vero suono crossover tra l'elettronica, la durezza e, perché no, anche la capacità di saper scrivere canzoni. Cobalt 60. Total Control, recitano le ultime frasi di questa canzone Rainbow Warrior, tra l'altro uno degli episodi sicuramente meno soavi dell'intera raccolta, ossia questo album dei Cobalt 60 che si intitola 12, insomma, dal quale abbiamo ritrovato questa ennesima canzone che insomma mi piace riproporvi più volte. Questa band sicuramente sconosciuta, io credo che non sia stata neanche pubblicata in Italia. Nel frattempo questo che sentite, rumore fastidiosissimo, sono i vostri SMS che continuano ad arrivare e vengono captati dalla puntina del giradischi di Easy Rider, o meglio di Rock FM, perché non sono così scorretto da appropriarmene se non durante le ore di onda del mio programma, ma è tanto anche per dimostrarvi che questo è un comunicato assolutamente vintage, e questa è una cosa che ci tengo sempre a ribadire. Allora, il 335-100-7777 è sempre e comunque a vostra disposizione, così come la mail mox@radiorockfm.com. I primi saluti vanno a Gianni da Paderno Dugnano, che dice: illuminiamo tutti insieme la stella di Rock FM. Grazie, ma le stelle fortunatamente a Rock FM sono diverse. Il primo abbraccio a Veronica, anche a lei soddisfatta della serata di ieri sera, che mi fa una specificazione su quella che è la formazione degli Etna da lei menzionati. Poi l'amico Max Seven chiede un consiglio relativo a un libro per farsi una discografia di hard rock e heavy metal. Grazie per il Sei Mitica, non ho ancora cambiato sesso. In ogni caso mi sento di consigliarti i libri della Editori Riuniti, e a questo punto credo che sia perfetto, visto che sentito la 100 dischi ideali per capire l'heavy metal, se ricordo bene l'hard rock e l'heavy metal. E se ricordo bene l'autore è un giovane giornalista metallaro che si chiama De Paola, quindi cerca quello degli Editori Riuniti, oppure esiste anche un comodo manuale della Giunti, te lo dico nella bibliografia più recente. Poi esiste Hard Rock Story di un certo Ricci, che però è un libro degli anni 80, della prima metà degli anni 80, quindi è aggiornato a quel periodo e approfondisce molto bene tutta quella che è la storia dell'hard rock dagli anni 60 fino alla fine degli anni 70. E quindi questi sono i primi tre che mi vengono in mente: quello della Giunti, che sono proprio dei manuali, quello potrebbe intitolarsi semplicemente Heavy Metal o Hard Rock Heavy Metal, quello degli Editori Riuniti, 100 dischi ideali per capire l'heavy metal, e poi questo Hard Rock Story della Arcana di Cesare Ricci, se ricordo bene. Un saluto a Mada Livorno, buonasera e buon viaggio anche a te carissimo. Un nostalgico di Rock FM invece chiede: si hai permettendo, non potreste lasciare qualche vostra trasmissione da scaricare dal computer? Non avrei idea di come fare, caro. Chi si occupa di podcasting è il nostro Giulio, ma anche Ariel. Prova un po' a chiedere a loro. Da Zena dice: dalla Svizzera vogliamo quei virtuosi dei Coroner. Prima che finisca Rock FM, ti prego. Grazie e buona serata. Allora, i Coroner potrei anche metterli, però rimando anche a questo bel appuntamento notturno che farà Garavelli insieme a Deriu per la notte che partirà appunto dalla mezzanotte del 17 di questo mese, quindi sintonizzatevi già il 16 notte, poi a mezzanotte scocca la heavy metal Hard and Heavy Nightmare. Da Faenza: complimenti per la performance di Russi, grazie. Purtroppo un mio amico ha ricevuto la patente da vero rocker e adesso dice che può guidare la radio. Vabbè, insomma, sono effetti speciali dei nostri gadget. Posso chiederti come mai c'è un timbro dietro uno stemma riconducibile a qualcosa di motociclistico? Guarda, le domande relative alla patente da vero rocker è decisamente meglio rivolgerle ai due ideatori di questo strumento, e quindi al DJ Ariele e a Fricantoni. Quindi ti devo rimandare all'appuntamento del mattino dalle 7 alle 9. Un abbraccio anche a Cattivic, buonasera, complimenti per la bellissima parentesi live di ieri sera con un Harry Rollins e i Deep Purple Mark II, strepitosi, bravo, sei un buon gustaio. Ora io proseguirei con la musica, faccio partire qualcosa che è nel cuore di molti di noi, e non vi dico neanche di che cosa si tratta, vi dico solo che siamo nel 1977 e che questo è un disco di strepitoso successo, un disco che va primo in classifica, ci rimane a lungo e vende veramente tanto. È il disco di maggior successo, almeno degli anni 70, per questo autore, la cui armonica è già partita. Non vi dico neanche chi è, vi faccio godere questa "È stata tua la colpa". vuoi. Volevi diventare come uno di noi. E come rimpiangi quei giorni che eri un burattino ma senza fili. E invece adesso i fili ce l'hai. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda, muove i fili per che vuoi. Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto no. E adesso che ragioni come uno di noi. Li venderai come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco. Quei libri adesso li leggerai, vai vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria. C'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli. Edoardo Bennato, ovviamente un burattino senza fili che ben simboleggia, ovviamente con la figura del collodiano Pinocchio, ben simboleggia un po' quella che è la, non so come dire, la libertà e la mancanza di libertà. E insomma, in questo periodo questi discorsi relativi a libertà, oppressione, prigionia mentale e così supposta piuttosto che realistica sono sono un po' all'ordine del giorno qui su Rock FM. In ogni caso, una gran bella canzone da un concept album di matrice letteraria. Ricordiamo che, insomma, Pinocchio è una grande opera letteraria, per quanto destinata probabilmente all'infanzia, ma non solo, non solo. E quindi inizia questa grande abilità, questa capacità da parte di Edoardo Bennato di rielaborare in musica, di musicare anche usando spesso proprio come metafore, con uno sfondo sociale non indifferente, sfrutta appunto i libri, questi libri di fiabe. In seguito lo farà con la fiaba di Peter Pan, e ottenendo sempre dei grandissimi successi, almeno proprio in quel periodo. Va bene, lasciamo Bennato. Il prossimo brano ci fa parlare purtroppo di una persona scomparsa recentemente. Sto parlando del batterista Brian Davison, che era noto all'età appunto di quasi 66 anni, era noto per essere stato il batterista di Keith Emerson negli anni 60, ovvero sia il batterista di una formazione seminale per quello che riguarda la musica progressiva e la musica hard rock anche in un certo senso, ossia i Nice. E allora è proprio dei Nice che voglio parlare, visto che vi farò ascoltare un brano dal loro album d'esordio che si intitolava The Thoughts of Emerlist Devjack, che con questo bizzarro nome sfrutta per l'appunto tutti i cognomi dei quattro componenti dei Nice. Prima che diventino troppi, leggo, e prima di farvi ascoltare il prossimo brano dei Nice, che si intitola War and Peace, quindi guerra e pace, sempre per citare qualcosa di letterario, mi viene in mente Tolstoi, e leggo i vostri messaggi, quindi 335-100-7777, gli ultimi in ordine di arrivo. Giulia Rocker da Forlì, che si allaccia ai complimenti per Russi: avete fatto tremare la piazza. E non ti preoccupare, nonostante quello che ha detto Max, hai salvaguardato tranquillamente la tua carriera da batterista. Guarda, me lo auguro, insomma, di andare avanti a suonare con una certa dignità. Jarno da Zena invece deve essere uno di quegli ascoltatori sporadici, o quantomeno uno di quegli ascoltatori serali, perché mi chiede se ho mai passato i Candlemass, e la risposta è ovviamente sì, e anche abbastanza in abbondanza. Un saluto all'amico Mauri, che insomma è sempre presente all'ascolto. Si chiede che cosa si è perso. Guarda, per ora ti sei perso Edoardo Bennato, che era in sottofondo, e i Cobalt 60, che è un gruppo svizzero. Poi l'amico Fungo si unisce all'amica Veronica nel piacere di ascoltare, nel piacere dell'ascolto in fascia serale. Poi altri amici, Denis e Gisella, due moxofoli di Savona, così si definiscono. Io vi ringrazio, che bello poter ascoltare alla sera. Insomma, siamo sicuramente tutti più comodi sul divano, piuttosto che essere magari durante l'orario lavorativo all'ascolto. E infatti Easy Rider si propone proprio anche questo, di farvi sognare, non rilassare, perché alle volte c'è spazio per il relax, e anche stasera non mancherà, ve lo garantisco, ma ogni tanto c'è anche il momento di sobbalzare, e insomma sono gli ingredienti tipici. Un saluto a JB, anche lui è molto felice di ascoltare nonostante alcuni ospiti che ha a cena. Torniamo a Bomba, questi erano i Nice nel lontano 1967, 41 anni fa, pensate, e questa è War and Peace. più dolce ascoltare Rock FM gustando la mitica caramella Ziguli. Ziguli rende più dolce ogni momento e soddisfa la tua voglia di dolcezza. Oggi le caramelle della tua infanzia le trovi anche nelle pratiche confezioni Pocket, nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato. Chiedile al tuo bar. Ziguli, il mito continua. Rock FM Spot. Un tatuaggio è per sempre. Affidate ai professionisti la vostra pelle. Dragon Tattoo Studio di Giulio Tomasselli a Firenze. Il professionismo nel tatuaggio artistico. Con i suoi 20 anni di esperienza nel settore, Tomasselli vi aspetta nel suo nuovo studio in via Faenza 36 Rosso, a due passi dalla stazione di Firenze, insieme ad ospiti di fama internazionale come Rino Valente, Claudio Benvenuti e Sonia Giotto. Oltre ad una vasta gamma di gioielleria, piercing e materiali per tatuatori. Dragon Tattoo Studio di Giulio Tomasselli. In via Faenza 36 Rosso, a Firenze. L'esperienza che fa la differenza. Rock FM presenta Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Ha trovato un tesoro negli abissi dell'oceano, la più grande flotta del tesoro della storia. Non è possibile! Pensi che ti metterei su questo? Perché no? Sei un bugiardo. E tutti ne vogliono una parte. Trova il tesoro e non ti ammazzo. Dal regista di Hitch, Matthew McConaughey. Sei stata colpita! Kate Hudson. Ma sei diventato pazzo! Tutti pazzi per loro, al cinema. Cinema Cinema 01 Distribution presenta. Pensi che sia finita? Pensi di essere al sicuro? Ti sbagli. Prometto che il mio lavoro continuerà. So 4. Il gioco è appena cominciato. Dal 30 aprile al cinema. Cinema Cinema, la storia di un profondo legame tra due sorelle. Il re! Il re! Credi che le piacerò? Come non piacergli? Spezzato dall'amore per l'uomo più potente d'Inghilterra. Non ti ho tradito, lo sai questo. Natalie Portman. Non desidero altro, mio signore. Scarlett Johansson. Come puoi presentarti qui? E Eric Bana, l'altra donna del re, al cinema. Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Siete all'ascolto di Easy Rider. Scusa King Diamond, lo stavo per troncare, correva l'anno 1982 e i danesi Mercyful Fate esordivano con un EP deflagrante, a proposito di discografia fondamentale di hard and heavy metal, sicuramente il primo EP pubblicato dalla Ravon Records dei Mercyful Fate, ripeto danesi, è sicuramente una pietra miliare. E un ricordo che voglio condividere con voi, io all'epoca ero tredicenne e questo è uno di quei brani la cui partitura di batteria è stata imparata a memoria dal sottoscritto e quindi emulavo questo batterista un po' nella mia cameretta con grande gioia dei miei genitori, che sicuramente sono dei grandi fans dei Mercyful Fate come tutti i genitori rock che si rispettino. Allora lasciamo i Mercyful Fate, vi ricordo che prima abbiamo ascoltato i Nice per ricordare la purtroppo scomparsa recente del batterista Brian Davison, quindi dal loro album d'esordio del 67, abbiamo ritrovato quel brano strumentale che ha reso felice alcuni di voi, tra cui l'amico Peter che al 335-100-7777 mi fa sapere: è fantastico asciugare i piatti che ho finito di lavare ascoltando i Nice, ovviamente. Poi altri saluti, l'amico Fanello dice: venerdì sera, il prossimo venerdì, quindi mi dà occasione per ricordarvi l'appuntamento in Piazza Liberty qui in pieno centro a Milano, Rock FM All Stars Band all'interno del Telefilm Festival, si esibirà proprio la serata dalle 21 in poi in pieno centro a Milano. Dice: mi porterò una cassa di pomodori e a ogni tuo errore con le spazzole te ne ritroverai uno sulla gran cassa. Allora posso dire, caro Fanello, di essere salvo, non tanto perché io non faccio errori, ma quanto perché con la Rock FM Stars Band non è mai previsto l'uso di spazzole, quindi sono a posto. Paolo da Livorno che può sentire con calma invece che dal negozio, quindi felice anche lui. Renato da Genova mi chiede se conosco i Lizzy Borden. Assolutamente sì, è un gruppo che negli anni 80 ha abbastanza spopolato sempre in ambiti hard rock e heavy metal. Forse li ho anche passati un po' di tempo fa. In ogni caso, questo è sempre argomento che potrebbe rientrare nella nottata di Garavelli e Derio del 16 di maggio. Poi un abbraccio a Mozart che dice: irruzione di Merciful Fate, per l'appunto, e un saluto anche all'amico Frinz 78 dalla bella provincia di Bologna, presente l'appello anche lui. Passiamo alla mail mox@radiorockfm.com. Rispondo e saluto volentieri l'amico Rosario che dice: ieri con i Circus 2000 mi sono sentito ragazzo. E poi voglio rispondere all'amico milanese Danilo che dice: in una delle ultime trasmissioni diurne hai passato un brano dei Downset che avevo visto dal vivo nel 94 con i Pantera di supporto, cioè i Downset erano di supporto ai Pantera ovviamente. Che album era? Il pezzo era dall'album d'esordio del 94 proprio dei Downset, è un album omonimo, quindi ricordati che quello con la copertina disegnata con la bandiera americana che è usata, è sfruttata a mo' di censura, quindi sul volto di un essere umano, quindi questo è il riferimento che ti posso dare. Downset 1994. Va bene, allora proseguirei con la musica, cambiamo ancora come ci piace il discorso, dopo parleremo anche di cinema e non preoccupatevi che gli argomenti cardine di Easy Rider rimangono e permangono anche in questa fascia. Il prossimo pezzo è datato 2000, lui si può definire un rapper, ma se fosse rap puro, insomma, a parte i Public Enemy che hanno fatto un'incursione una volta, non sarebbe di casa volentieri ad Easy Rider. Invece è un uomo fortemente ispirato anche al blues di Tom Waits. Black Jesus è il titolo di questa canzone e anche, no, non è il titolo dell'album, è il titolo del singolo tratto dall'album It at Whitney's e lui si chiama Everlast. Hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blinds keep blooding, grips keep dripping, time keeps slipping, and I keep falling, and I can't. minutes ever last you on, and they go on and on like a rolling stone, baby. Everlast, Everlast, insomma, un rapper bianco che, insomma, affonda le sue radici nel blues e se ne vanta. Questo era un disco del 2000, Black Jesus, quindi un Gesù nero, probabilmente è anche questo un ottimo simbolo, un'ottima rappresentazione, un'icona che fa sempre bene ricordare. A me invece fa bene ricordare ancora i vostri nomi che continuano ad arrivare. Ogni pezzo sancisce poi una serie di vostri messaggi. Riprendo in mano la mail mox@radiorockfm.com. Ancora non vi ho parlato della mail mox@rockfamily.it, che potete prendere in considerazione quando volete. E soprattutto non ho ancora ringraziato invece gli amici del Circuito Popolare Network per la loro dimostrazione illuminata oggi dalle ore 14 fino alle 14:30, visto che hanno ospitato i miei colleghi Ariel Fricantoni, ovviamente anche Max De Riu e Maurizio Faulisi. Quindi un intervento pro Rock FM che insomma non è da tutte le radio poter permettere una cosa del genere, quindi un plauso a questo circuito che ha dimostrato grande solidarietà e anche grande senso di democrazia, ovviamente. Poi dicevo, le vostre mail, l'amico Fausto fa una considerazione che mi fa molto piacere effettivamente, perché il brano dei Nice che abbiamo ascoltato prima meritava davvero, e dice: se questa era la musica di 40 anni fa, visto che appunto il brano era del 67, vuol dire che siamo regrediti. Grandi Nice. Ecco, meditare un po' su questa ipotesi, visto che il suono dei Nice era comunque abbastanza avanti, ricordiamo che, cioè, Keith Emerson era il leader di questa formazione, e si parla sicuramente di un talento della storia, di fama mondiale. Christian Brugnara invece mi scrive che mi vuole bene, sostanzialmente, visto il passaggio di una sua band di riferimento, ossia i Mercyful Fate. Andre da Genova mi chiede che penso degli Spiritual Beggars, tutto il bene possibile, ovviamente li abbiamo anche ascoltati, e Amot lo abbiamo ascoltato anche con i Carcass che tu menzioni, ovviamente. Poi presente anche stasera per conoscere il panorama Arden Devi, cercare su internet alla voce Beppe Riva. Allora, l'amico Andre mi dà uno spunto ben accetto, visto che proprio il nome da lui fatto, Beppe Riva, ossia colui il quale insieme a Marco Garavelli, ovviamente in parte, ha portato l'heavy metal in Italia, ha portato letteralmente la cultura di questo genere musicale in Italia. Quindi se l'heavy metal in Italia è conosciuto, è grazie proprio a questi due personaggi. E allora io cosa voglio dirvi? Che Beppe Riva sarà ospite di Easy Rider tra non meno di 8 giorni, quindi se non è martedì prossimo sarà quello dopo, ma Beppe Riva sarà qui con me e vi faremo ascoltare direttamente una serie di cose direi del tutto interessanti, e peraltro raccontate da un protagonista assolutamente illuminato, e qui mi ripeto, come il buon Beppe Riva. Un altro amico invece mi manda un'ottima segnalazione a proposito di Lizzie Borden, dice: saranno di scena al Bang Your Head Festival a fine giugno in Germania e non me li perdo. Saluti Klaus e Easy Rider in notturna è un'altra cosa, cioè grandiosa. Va bene, grazie del tuo complimento. Io adesso voglio tornare a 40 anni fa portandovi nuovamente in America con uno dei gruppi seminali per quanto riguarda la psichedelia, la scena psichedelica, un gruppo veramente sognante, sognante a partire dal nome, perché facciamo un altro riferimento alla letteratura, al cinema arriveremo tra poco, quindi state lì. H.P. Lovecraft, uno dei più deliranti scrittori di fantascienza e perché no di fantasy e di horror contemporaneamente. Questo è anche il nome di una band di Chicago che noi ritroviamo con un suo album del 1968 e questo viaggio che voglio dedicarvi si intitola Electrallentando ed è un titolo assolutamente esemplificativo. Ascoltate. Not blue. Un viaggio vero e proprio, ve l'avevo promesso, un viaggio in notturna ovviamente con gli H.P. Lovecraft, non poteva essere altrimenti, insomma proprio fino all'ultimo colpo di silenzio ho lasciato girare questo vinile del 1968 che caratterizza molto bene la puntata odierna di Easy Rider, che come al solito è molto eclettica, tanto per parafrasare anche un'altra trasmissione di Rock FM, quindi quella del collega Giulio Caperdoni. Allora, ancora saluti a Giulia La Forlì, che mi consiglia gli Iodrama, band di recente formazione, grazie, approfondiremo. Mauri dice giustamente che Beppe Riva fece un sacco di articoli sulla New Wave o British Heavy Metal, ma non solo sulla New Wave o British Heavy Metal, e dice speriamo che porti qualche chicca di quel fantastico periodo. Ne sono sicuro, sappi che comunque Beppe Riva è andato a ritroso ed ha veramente approfondito la scena musicale da fine anni 60 in poi, scoprendo veramente dei padri fondatori di generi che a noi piacciono molto, insomma, e quindi sono veramente entusiasta di poterlo ospitare all'interno delle pareti di Easy Rider in questo caso. Allora, Rose 76 dice in fascia serale rasenta il capolavoro, peccato che il countdown funesto sia inarrestabile, sei il migliore, grazie Rosa, anche tu sei il migliore. Poi chi abbiamo? Il Giba di Firenze, saluto anche lui, com'è sta storia? Oggi ho ascoltato Claudia oggi nella mia ex fascia oraria e dice almeno di voce è molto meglio di te, e forse non solo di voce, ma caro Giba, dipende dai gusti ovviamente, comunque posso sottoscrivere la tua affermazione, almeno ci mancherebbe che non fosse così. Andre dice Beppe Riva su Easy Rider sei un mito, per caso bolle qualcosa in pentola con un altro guru, Marco Garavelli? Bolle sicuramente la famosa notturna che stiamo pubblicizzando, ripeto, la Hard and Heavy Nightmare, che andrà in onda, lo dico per chi si fosse sintonizzato magari in ritardo, andrà in onda la notte del 16 maggio. Allora il prossimo pezzo invece ci fa tornare in Italia, il linguaggio è un po' più jazz rock, Bella Band è il nome di questo gruppo di culto, visto che usciva per la Cramps, ha fatto un disco nel 1978, un album omonimo che io voglio consigliare anche perché è stato ristampato in una bella versione CD con copertina Digipack, 4 solo i brani che compongono questo piccolo capolavoro di jazz rock tutto italiano per questo quintetto fiorentino. Fai da diesis è il titolo della traccia di apertura. Bella band, il curioso nome di questo, come avevo promesso, ottimo combo di jazz rock con un'ottima registrazione. È sempre il caso di spendere due parole positive per quanto riguarda questo periodo italiano degli anni 70. I dischi della Cramps suonavano veramente, ma veramente bene, grazie proprio alla tecnologia, ma più che altro al talento più che alla tecnologia di chi metteva le mani sul mixer all'epoca, non ultimo Paolo Tofani, alle volte anche Eugenio Finardi. Insomma, c'erano dei grandi musicisti che per primi si occupavano dei suoni e dei mixaggi dei dischi di questa meravigliosa etichetta italiana che ha fatto la storia. Allora, io voglio salutare Cattivic dice: impari a suonare la batteria su una partitura di Kim Raz, ti inventi Easy Rider, porterai Beppe Riva in trasmissione, dire che sei un mito e dire poco. A me, insomma, per così poco, sono attitudini. La mia attitudine è esattamente la vostra. Ognuno di noi ama visceralmente nelle sue varie sfaccettature la musica rock, e quindi siamo tutti qui con un unico intento. Ulrich mi chiede qualcosa di Andrea Tick. Andrea Tick è un altro dei personaggi che abbiamo ascoltato qualche volta in fascia diurna, anche con ospiti come Claudio Rocchi, vista l'amicizia tra i due. Però colgo il tuo suggerimento, che è sempre valido, può essere che entro il 31, sia la chiusura di questa emittente, qualcosa di Andrea Tick, magari dal suo album, proprio quello del 78, salti fuori, insomma. Poi in fascia serale sei ancora più grande del solito, vai, prima o poi ci citerà la tua discografia essenziale. Ah, ecco, ci citerai. Questo è Paolo Bagnacavallo. Ancora grazie a te. La mia discografia essenziale è essenziale, ma neanche tanto, perché è veramente numerosa. Ci ho pensato più volte, ma dovrei scrivere, tanto per parafrasare un po' quella serie di libri delle editori riuniti che si chiamano 100 dischi ideali per capire un genere. Ecco, io farei 100 dischi ideali per capire Mox, con ovviamente, come nello stile di quei libri, anche i tre titoli in aggiunta per ogni titolo, quindi vengono fuori 400 album mediante i quali probabilmente riesco ad esprimere quelli che sono i miei sentimenti, così. Luisa da Milano mi manda una bella segnalazione, mi dice che sta andando in onda la replica su Radio Popolare, però giustamente dice: non voglio toglierti gli ascoltatori. Effettivamente qui c'è una bella lotta, nel senso che su Radio Popolare oggi sono state spese parole di saggezza, ma più che altro destinate agli ascoltatori di Radio Popolare, che solo alcuni sono in comune con Rock FM, quindi è giusto che questa cosa sia divulgata il più possibile. Invece qui quello che è stato detto dai colleghi ovviamente si conosce benissimo, si conosce a menadito, anzi a stramemoria, e poi soprattutto qui c'è la musica. E allora io voglio preparare anche il prossimo pezzo, mi fa fare anche un indovinello. Io voglio dirvi, si tratta di un tema di un film di David Lynch, di un po' di anni fa. Il protagonista è Anthony Hopkins, e vorrei che indovinaste qual è il film. Non è musica rock, ma il film secondo me è molto bello e parla di affrontare un po' quella che è la diversità, anche se questa è una cosa molto più drastica ovviamente, quella del film, ma insomma, in qualche modo voi lo sapete, Rock FM rappresenta bene la diversità, almeno nel panorama radiofonico. Allora vi faccio ascoltare questo tema da film e dopo indovinerete di che film si tratta. Thank you. non è facilissimo, vista la drammaticità della musica, ma ovviamente sottolinea anche, insomma, delle scene particolarmente drammatiche. Qualcuno ci prova con Il mio nemico, in realtà no, io ho parlato di Anthony Hopkins, parliamo di una interpretazione da parte di Anthony Hopkins quando era ancora abbastanza giovane. Siamo nel 1980, l'amico Rosario 76 dice: grandioso Elephant Man, gemma nella corona cinematografica di zio David, ovviamente David Lynch. Sei il numero uno, grande Rosario, anche tu sei il numero uno, quindi bravo, bravo che hai indovinato questa musica che, ripeto, pur essendo poco rock, ci sa parlare molto bene di diversità. E allora di diversità parliamo sempre, è il linguaggio che Rock FM conosce molto bene, specie programmi come Eclettica, come Easy Rider e anche quelli specifici degli amici Maurizio e Fabio Treves. Insomma, ognuno di noi ha delle caratteristiche peculiari che raramente si trovano nell'etere, purtroppo, e io voglio comunque anche con il prossimo brano comunicare qualcosa di, in questo caso, vincente, di non rassegnato, visto che, come promesso ieri a un ascoltatore che me ne ha fatto richiesta, vi faccio riascoltare gli Inside Out. Chi sono gli Inside Out? Niente po' di meno che la band prima dei Rage Against the Machine di Zach Della Rocha. Nel caso di No Spiritual Surrender, quindi nessuna resa spirituale, questo era il titolo dell'EP che hanno realizzato, l'unico disco che gli Inside Out hanno realizzato nel lontano 1990, si può parlare anche in questo caso di Krishna Kaur, visto che le tematiche sono molto indirizzate verso la filosofia di Krishna e quindi le letture vediche in generale. Il suono però è dichiaratamente hardcore, è dichiaratamente metallico, e No Spiritual Surrender potrebbe essere benissimo un ottimo finale di trasmissione, un ottimo finale, un'ottima chiusura di trasmissione anche per Rock FM. Nessuna resa, almeno dal punto di vista spirituale, visto che dal punto di vista materiale ne siamo un po' costretti. Questi sono gli Inside Out. Nessuna resa spirituale, il monito che arrivava dai grandissimi Inside Out, purtroppo si sono sciolti subito. Ricordiamo che dalle ceneri degli Inside Out nascono i Rage Against the Machine, ma nascono anche i 108 da parte dell'ottimo chitarrista, il cui nome sanscrito era Vraja Kishora. Allora, io sono contento di aver riproposto questo brano che appartiene al repertorio che più insomma mi ha in qualche modo cambiato la vita, e quindi mi piace spesso condividere anche con voi queste cose. L'amico Werner mi scrive dalla Spagna, ricordiamo Werner, un ottimo disegnatore di fumetti, dice: e vai, pestaci di brutto, ti tengo a tutto volume. Oggi questi mangia jamon, cioè prosciutto, sentiranno che cos'è il rock. Che me illusi, Rock FM o Rock Family? Guarda, in questo momento, quando sono in diretta, uso RadioRockFM.com e in differita guardo RockFamily.it. Ovviamente il prefisso è sempre MOXET. Poi saluto l'amico Filippo della redazione che mi scrive perché sta ascoltando e mi manda un commento sui Bella Band, dicendo: bella storia, ovviamente, molto goblin e poliziottesco anni 70, ovviamente, perché essendo un brano strumentale e peraltro degli anni 70, i suoni richiamano certamente quello stile. Ovviamente l'ascoltatore che mi ha richiesto ieri gli Inside Out adesso mi manda un SMS di ringraziamento al 335-100-7777. Voglio continuare ad essere dichiaratamente spirituale anche con il prossimo disco. Ieri abbiamo ascoltato i Journey, menzionando ovviamente Neil Sean come leader fondatore, tra gli altri, di questa band. Allora oggi andiamo a prendere un po' quelle che sono le sue origini. Vi ho detto che militava nella formazione Santana, e allora uno dei più bei dischi di Santana si intitola Caravanserai, ed è un disco veramente da viaggio serale, e io vi faccio ascoltare una sequenza di pezzi. Siamo nel 1972, ovviamente, Carlo Santana con Neil Sean e altri ottimi musicisti. Che il viaggio cominci. sequenza magica di tre brani tutti uniti insieme. Questo era Caravanserai, l'album del 72 dei Santana, uno dei primi album dei Santana. Abbiamo ascoltato Waves Within, seguita da Look Up to See What's Coming Down e da Just in Time to See the Sun, appena in tempo per vedere il sole. Quindi un viaggio notturno che si protrae fino all'alba, e questo è Caravanserai, il disco forse più magico, più magicamente psichedelico dell'intera produzione Santana. Allora, nel frattempo arrivano ancora i messaggi degli amici che si occupano tanto del numero di sms 335 100 7777 quanto della mail, e allora è di questa che vi voglio parlare e salutare e ringraziare contemporaneamente l'amico Gheppo da Genova, che dice la notte è sempre tua, e l'amica Chiara, che anche lei si ricollega al film di Lynch, Elephant Man, dice un capolavoro, piango tutte le volte che lo vedo, che meraviglia. Bene, è una sorte comune, cara Chiara, è fin troppo facile, insomma, commuoversi alla visione di questo film. Comunque sappi che succede la stessa cosa anche al sottoscritto. E allora voglio diventare sempre più notturno, sempre più oscuro. Dopo i Santana facciamo un salto negli anni 80 in Inghilterra con un personaggio che si chiama Gordon Sharp ed è uno dei musicisti dark più dark del mondo, ed infatti è un musicista che apprezzo veramente tanto. La sua non è una musica per tutti, ma per noi che amiamo la notte, amiamo le tenebre, l'oscurità, insomma, direi che ci possiamo ritrovare anche abbastanza bene, abbastanza comodi. Non è molto melodico il discorso di Gordon Sharp con i suoi Cyndi Talk. E allora il primo album a nome Cyndi Talk, quindi trio condotto da Gordon Sharp, si apre con It's Luxury, un brano che questa sera ad Easy Rider vi voglio riproporre. E giusto perché siamo in fascia notturna, perché in fascia diurna mi sarebbe stato particolarmente impossibile proporvi un brano del genere. Vi dico solo questo: Cyndi Talk 1984. Gordon Sharp con i suoi Cyndi Talk, prima metà degli anni 80, questo era il suono dark che vi avevo promesso, che possiamo permetterci il lusso, come direbbero anche loro, di trasmettervi qui a Rock FM, perché i nostri linguaggi sono multietnici, multimediali, insomma spaziano in lungo e in largo, non solo per il mondo ma anche per le epoche e soprattutto per insomma per il tipo, la tipologia di sonorità che ci piace proporre. Vedo che c'è chi apprezza, come Lorre, che scrive per l'appunto al 335 100 7777, è brutto continuare a ripeterlo ma è importante perché c'è chi potrebbe non ricordarselo, e dice: che bello risentirti nella notte, tu e la tua musica onirica. Ecco, questo è un altro aggettivo secondo me assolutamente calzante per quanto riguarda determinate sonorità. Il caso di questa It's Luxury dei Cyndi Talk secondo me è ben rappresentativo di una alternanza tra suoni onirici e suoni devastanti, perché il distorsore di questa chitarra non era comune, non richiamava certo la pulizia e la raffinatezza dell'heavy metal, ma una certa disperazione tipica del dark più vero e perché no del punk, che insomma rappresenta per certi aspetti anche le radici di questo suono. Allora, un saluto ad Antlon che dici: chi c'è? Il mio batterista preferito. Un salutone Mox, arrivato ora. Benvenuto all'ascolto Antlon, grazie per il batterista preferito, anche se insomma non credo di meritare questo titolo, di batteristi bravi ce n'è pieno il mondo. Comunque approfitto per ricordarvi gli appuntamenti della Rock FM Stars Band, quello toscano del 24 di maggio, che sarà un sabato e sarà l'ultimo del farewell tour di questo gruppo aziendale, e poi quello di venerdì, quindi tra pochissimi giorni, in Piazza Liberty qui a Milano. Il prossimo pezzo, a proposito di bravi batteristi, insomma scomoda un calibro veramente inarrivabile, io vi dico solo che sono gli Yes, che è ancora il 1972, quindi torniamo in questo anno dopo aver ascoltato Caravanserai di Santana, adesso andiamo ad ascoltare Fragile, quindi Fragile per gli Yes, con un classico della loro produzione, anzi un classico della musica progressiva di ogni tempo, Heart of the Sunrise. Questi sono gli Yes.

Rock FM presenta Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Acclamato al Sundance Film Festival. So che succederà un grande casino adesso. Un film sui sentimenti. Però mi sento finalmente vivo. I dubbi. Che io credevo che il nostro amore fosse unico. Le paure di una generazione. Dovevamo fare un film duro, sui precari, non su cinquantenni soli e confusi. Ma è quello che stiamo facendo. Riprendimi, un film di Anna Negri, dall'11 aprile al cinema. Cinema Cinema. Quest'anno. Spartani! Si salvi chi può. Hai radunato il mio esercito? Sì, sì. Dai ragazzi che hanno visto 300. Sto mettendo su un esercito di 300 uomini per fare guerra alla Persia. Una nuova grande commedia epica. Ne volevo 300. Questi sono tre polli. 300. Chi la duro la vince. Al cinema. Ma va? Cinema Cinema. 01 Distribution presenta. Dicono che la nostra età è la più bella, ma hanno idea di che vita facciamo? Prendiamo la scuola. Per salvarvi dalla retrocessione ci vuole soltanto un miracolo. Chi mi rimane allora? I miei amici. Dai, sali che andiamo. Devo studiare. Sì, vabbè. Poi andiamo via. Ma soprattutto il mio blog. Ultimi della classe, dal 16 maggio al cinema. Cinema Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. State ascoltando Easy Rider. America mi sembra un ottimo finale per congedarmi da voi anche per questa seconda puntata della riedizione di Easy Rider in fascia notturna. Io sto per lasciare lo spazio, la console, la rete intera all'amico Maurizio, che questa sera avrà ospiti a Country Skyline, una string band al completo che vi farà emozionare come al solito, come è normale che sia, insomma, qui a Rock FM. Gli ultimi saluti agli amici che hanno continuato a scrivere in ordine appunto di tempo, gli ultimi SMS, quello del Fa, che anche lui apprezza di più la fascia notturna. Il Frama si definisce uno dei fortunati che ha avuto la possibilità di vedere la Rock FM Stars Band a Russi, siete fantastici e come batterista pesti veramente duro, grazie. BC67 fa un commento sul brano bellissimo degli Yes ascoltato prima, ossia Heart of the Sunrise. Dice: ma mi spieghi quest'intro degli Yes, è identico a 21st Century, Schizoid Man dei King Crimson, ovviamente grandissimo Bill Bruford. Beh, insomma, il periodo è lo stesso, alle volte i musicisti anche sono gli stessi, per cui certe cose si spiegano da soli, caro Bici. Bonnie, buona serata, guarda che ora arrivo, insomma arrivi un po' tardi però in tempo per ascoltarti il Faulisi. E poi un bellissimo SMS di un amico anonimo che però dice una cosa, insomma, divertente. Dice: hai la concorrenza di Gasparri su Ballarò, stasera vinci facile. Invece gli ultimi messaggi che ricevo alla casella di posta elettronica mox@radiorockfm.com sono dell'amico Stefano, al quale voglio dedicare il pezzo che mi hanno appena ascoltato, perché dice: ho scoperto gli Inside Out qualche giorno fa cercando novità sui 108, ma non ero ancora riuscito ad ascoltarli, da paura sto pezzo. Grandissimi i Cro-Mags a ieri. Un pezzo degli Husker Du nei prossimi giorni, perché no, perché no. Alfonso invece dice: anche se siamo alla fine della tua seconda incursione post dinner, bentornato fra i viaggiatori notturni, che bel viaggio stiamo facendo insieme, soprattutto con queste note incantevoli degli Yes che ci portano dritti nel cuore della notte. E come dice la PFM, chi ha paura della notte? Noi no, con una musica così possiamo essere solo piacevolmente contenti e positivi. Caro Alfonso, parole sante, e sono le ultime per questa sera, quindi buon viaggio a tutti voi. L'abbraccio circolare da parte di Mox, vi lascio con il Faulisi e la sua band ospite live. Noi ci risentiamo domani, domani compirò 39 anni e quindi mi piacerebbe che ci foste tutti. Da parte di Mox è tutto, buonanotte e abbraccio circolare. Rock FM ha presentato Easy Rider, un viaggio musicale pensato e condotto da Mox Cristadoro. Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bgmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bgmai.it. Good rocking tonight! Rockabilly, jumping jive, swing, surf, doo-wop. Il meglio del migliore rock and roll a Good Rocking Tonight. Tutti i giovedì e sabato a partire dalle ore 23 con Maurizio Faulisi su Rock FM.